24 mattino. Buongiorno, bentornati in diretta a Luca Telese, 24 mattino, e qui a fianco a me, metaforicamente ma in voce presente, c'è l'uomo che tutta l'Italia insegue, c'è l'uomo più discusso del momento, quello che accende le passioni di amici e nemici, c'è il candidato governatore alla regione Sicilia del Movimento 5 Stelle, Giancarlo Cancelleri. Buongiorno! Buongiorno Telese, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, qui diciamolo subito, perché io dico cose chiare con i miei ascoltatori: lei mi è simpatico da molto tempo, dalle sue prime uscite, sento sempre la sua voce un po' sorridente, quindi proprio questa vicenda mi ha molto stupito. Ho anche preso una posizione spiegando che cosa è accaduto. È giusto che la magistratura entri nelle regole dei partiti, però in questi anni abbiamo visto l'ira di Dio di cose. E dalla Polverini senza una lista, dalle firme false in Piemonte, ne abbiamo viste di tutti i colori. Non capisco perché entrano in campo solo sui 5 Stelle. Lei ha una spiegazione su questo? Ma stanno cercando di fermarci in tutti i modi. C'è chi ci paragona all'AIDS, ha sentito le dichiarazioni di Micciche. È sobrio, sobrio Micciche. Come sempre, devo dire. Come gli ha risposto lei? Come gli ha risposto? Che controllassero se fa ancora uso di stupefacenti. Beh, questa però è molto politicamente scorretta. Ma per carità, ma non è giusto neanche parlare di malattie o accostarla ad un movimento. Ma perché politico ha fatto proprio questa battuta sugli stupefacenti? Se fa ancora uso, cioè uno potrebbe dedurre che lei pensa che Micciche ha fatto uso di stupefacenti. Ma per carità, dico, quelle sono le cronache che ci ha raccontato la storia sui suoi, poi non lo so cosa è successo. D'altronde si è difeso lui dicendo che ne faceva uso, quindi non so cose che mi sto inventando io. In realtà questa cosa sta venendo fuori dai tribunali che dicono di sospendere sostanzialmente la regione. Noi andiamo avanti, siamo in campagna elettorale, io sono il candidato presidente del Movimento 5 Stelle e noi ci presentiamo alle elezioni con questa lista. Ecco, per io ho detto che ho una simpatia umana, che non necessariamente politica, però le devo fare una domanda. Quello che abbiamo letto sui giornali su questa vicenda del candidato sospeso, c'è almeno un dettaglio che è molto curioso, cioè lui avrebbe ricevuto una richiesta di un modulo in un'ora, entro un'ora avrebbe dovuto rispondere con una mail, non lo ha fatto, è stato sospeso. Questa cosa, lei si sente di dire che era un po', come dire, da zecca garbugli, sembrano quelle cose delle compagnie o dei quelli che ti vendono le cose per corrispondenza, è accaduto veramente così? Ma non è andato assolutamente in questo modo. Ogni candidato del Movimento 5 Stelle deve, per essere proprio un candidato, firmare un codice di comportamento, che è un codice etico. Ovviamente sono stati avvisati tramite... State ascoltando un programma offerto da... 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre, a Genova. Buongiorno, allora eccoci qua, 24 mattino, Corrado Formigli con noi, e sapete che è il conduttore di Piazza Pulita, che ricomincia oggi con un servizio esclusivo e tante cose di cui parliamo fra un secondo. Buongiorno Corrado. Ciao Luca, buongiorno a tutti. Ma c'è anche un segreto che molti non conoscono, non ricordano: tu hai condotto anche La Zanzara. La Zanzara con Corrado Formigli. Buonasera a tutti gli ascoltatori, 19:16 minuti, 824 0024 il nostro numero verde, 349-238-6666 per i vostri messaggi SMS. Sono Corrado Formigli, sarò con voi per alcune settimane al posto del... Bello, bello. Guarda, hai tirato fuori veramente una chicca, 2008 mi pare. Vedi, non lo ricordava nessuno. Come fu quell'esperienza? Bellissima, perché scoprì la radio, che era un mezzo che non conoscevo, e mi sono divertito un mondo. Mi piacerebbe molto fare la radio, perché dà un senso di libertà che in televisione te la sogni, no? La televisione, diciamo, ha dei codici più rigidi, è più complicata, è più, anche più stressante. La radio ti dà un senso di libertà che è impagabile. Mi sono divertito un mondo, veramente, un bellissimo ricordo. E quel numero che davi anche tu, 800 24 00 24. Allora, con cosa cominci oggi? Comincio con una fotografia, comincio con un reportage da Raqqa, sono tornato 4 giorni fa da Raqqa, dalla prima linea, dalla guerra all'ISIS, e comincio con un reportage esclusivo che si apre con un'immagine che per me è un'immagine simbolo del tempo che stiamo vivendo, cioè di un prigioniero dell'ISIS che io ho chiesto di intervistare, che mi portano lì col cappuccio in testa. Minorenne. Quando alzano il cappuccio, sotto il cappuccio c'è un bambino di 13 anni. Che viene appunto, mi viene mostrato come un pericoloso terrorista. E insomma, è una foto simbolica perché ci fa capire che diciamo viviamo un mondo di barbari in cui comunque il confine tra vittime e carnefici è molto labile, no? E d'altra parte nel reportage, accanto alla morte di tanti carnefici che sono stati uccisi dai curdi, ci sono tantissime vittime civili sotto le macerie. Per me è indimenticabile il tanfo di decomposizione di corpi, di cadaveri che c'è a Raqqa, e non ho mai sentito in nessun altro luogo di guerra così forte. Raqqa è una città completamente rasa al suolo, completamente, sotto le macerie ci sono migliaia di corpi e probabilmente non sono tutti terroristi, ecco. Le bombe sganciate dall'alto fanno tanti, come si chiamano, no? Danni collaterali, che sono poi uomini, donne, bambini, e chissà quando scopriremo davvero qual è il prezzo, no? Che stiamo pagando a una guerra che pure è una guerra sacrosanta, una guerra giusta. Sentiamo un frammento. Senza controlli. Come ti chiami? Mohamed Musabali. Quanti anni hai? 13. E perché sei in prigione? Perché sono dell'ISIS. Come sei stato arrestato? Stavamo difendendo un villaggio vicino Raqqa quando siamo stati circondati dai curdi. Io sono stato colpito ad una gamba e mi sono riparato dentro una casa. Ecco, lo sentirei per ore, ma lo deve sentire chi guarderà il tuo programma. Che impressione hai avuto di questo bambino terrorista, guerrigliero, talebano? Che cosa... No, talebano un bambino, no. Un bambino che è stato strappato alla scuola, che è stato addestrato con una durezza incredibile a schivare le pallottole, a schivare le schegge delle esplosioni, che si addestrava tutto il giorno in un campo militare, che è stato completamente programmato per combattere, ma è un bambino, è proprio un bambino, è imberbe tra l'altro, è piccolo, potrebbe essere un nostro figlio, e soprattutto la cosa che mi impressiona è che lui ha perso i suoi genitori, nel senso che non sa letteralmente dove sono. E quando io ho chiesto, scusami, ma dove stai? Cioè, sto in una cella con altre 70 persone, alcune sono adulte, sto in cella 23 ore al giorno. E quando ho chiesto ai suoi carcerieri, che poi sono i curdi siriani, che poi sono gli eroi, no? Di questa guerra contro l'ISIS, ma questo bambino che fine farà? Loro non lo sanno, perché non sono ancora uno Stato attrezzato con uno Stato di diritto per poter prevedere che cosa succederà dopo questa guerra a tutti i bambini figli dell'ISIS, a tutte le mogli dei combattenti dell'ISIS, che poi sono persone che hanno condiviso la quotidianità con l'ISIS ma non hanno colpe. E questo bambino, è vero, è stato catturato in combattimento dove lo hanno buttato, no? Tra le truppe dell'ISIS a fronteggiare il nemico, ma io non riesco ad accettare l'idea che sia un colpevole, che sia appunto un carnefice, un bambino che ha vissuto una segregazione totale. Gli chiedo, ma tu sai cos'è la Ferrari? Sai cos'è il Real Madrid? Lui non ha mai sentito questi nomi nella sua vita, perché non ha mai visto la televisione, perché la televisione era vietata a Raqqa dall'ISIS. Capisci in che dimensione piombi, no? Quando entri, certo, è evidente. Allora, una telefonata, sai come funziona qui la casa? Walter che ci chiama, e che cosa vuoi dire, Walter? Buongiorno, da Bari. Pronto? Sì, buongiorno Walter. Buongiorno. Senta, un telefono a proposito delle elezioni in Sicilia. Io ho una mia idea. Scusi, Fiato, sì. Ma sto facendo jogging. Vada, e questo è bello. La magistratura sta facendo un grosso favore al Movimento 5 Stelle, perché vi sta facendo passare per vittime. E le vittime, quando sono perseguitate, attirano sempre più simpatie nei persecutori. Quindi... chiarissimo. Io credo che stia sotto esultando per questa cosa. Le facciamo rispondere subito da Formigli. Ne parlerai oggi di politica, ovviamente, oltre a questo scoop, Corrado? E cosa pensi della vicenda Cancelleri? Sì, perché stasera Cancelleri con Luigi Di Maio saranno ospiti a Piazza Pulita e parleremo ovviamente anche di questo. Ma sai, è chiaro che c'è qualcosa che non funziona, no? C'è qualcosa che non funziona nella procedura. E io ho sentito quello che ha detto Cancelleri e concordo che se un partito decide, un movimento decide che quello è il loro diciamo candidato, lo candidino. Però ecco, la sensazione che queste procedure siano un po' come posso dire, un velo, no? Una mezza finzione, insomma. Io vorrei che loro avessero certe volte il coraggio di dire: questo è il nostro candidato perché è il più bravo che abbiamo. Capisco che sarebbe una rivoluzione, ma forse li farebbe uscire da questi pasticci, perché altrimenti l'altra questione è accettare fino in fondo quella che è la decisione del giudice, quindi rifare le regionarie. Io non so se loro intendono rifarle, però non hanno pubblicato il dispositivo dell'ordinanza sul sito come era stato chiesto dai giudici. Allora chiedo ai 5 Stelle: i giudici, le decisioni dei giudici vanno rispettate e, come dire, eseguite come avete sempre detto, oppure certe volte sì, certe volte no? Ecco, io trovo un divago l'atteggiamento dei 5 Stelle, dovrebbero essere un po' più chiari su qual è la loro linea. Dopodiché, se Cancelleri è il candidato giusto, abbiano il coraggio di dire: non ce ne frega niente, Cancelleri è il nostro candidato, non le rifacciamo alle regionali perché pensiamo che sia lui il candidato. Ecco. Domanda curiosa e personale, potete scrivere al 349-238-6666 oppure chiamare all'800-24-0024. Formigli, come fai a lavorare in TV con quella faccia? Non ti fai nemmeno la barba? Vuoi essere più uomo? Perché la barba lunga? Ecco un segreto di Formigli. Niente giacca e barba lunga in studio. In realtà la barba me la sono fatta crescere a un certo punto, succede... Anche tu ti sei fatto crescere i baffi, no? A un certo punto. Non so, sai, a un certo punto ci prende male a noi maschietti, cioè, vogliamo cambiare un po' la nostra faccia, vogliamo sembrare più grandi, non te lo so dire, ma io mi trovo bene con la barba, poi mi fa fatica perché io ho la pelle molto sensibile e quando mi rado mi vengono tutte le bolle. Ah, ecco, vedi i segreti. Allora, questa la mettiamo nel nostro fritto misto. E l'appuntamento è per stasera alle 9:15. C'è qualcos'altro che vuoi raccontare del programma proprio in un lampo? Guarda, una cosa, abbiamo un'inchiesta molto forte sui vaccini, in cui insomma viene fuori un po' il caos che stiamo vivendo, che è il caos tipicamente italiano. Ogni regione si comporta come crede, ogni scuola ha la sua linea, viene fuori anche tanta ignoranza da parte di alcuni direttori didattici, presidi delle scuole, e soprattutto tante furbizie, perché come sempre in Italia, fatta la legge, trovato l'inganno. Insomma, stasera ne vedrete delle belle. E infatti i presidi si ribellano sulle pagine di oggi perché dicono che non riescono a applicarla. Grazie Corrado Formigli, il gattone. Grazie, arriva pubblicità, un secondo. Mattino. Allora, rieccoci, tanti messaggi, tante telefonate, sentiamo Hermes da Milano, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Grazie a lei. Grazie a voi due, persone molto garbate. Meno male. Io devo dire quello che mi è successo, volevo portare a conoscenza, naturalmente a più persone, che transitavo verso la fine di luglio in Svizzera, nel canton francese, per motivi per un impegno praticamente, e su un viale, tra l'altro un rettilineo dove a destra e a sinistra c'erano alberi da frutta, naturalmente involontariamente ho schiacciato e andavo 27 chilometri in più, dico 27 a fronte di 50 chilometri, sono stata subito fermata dai gendarmi, che mi hanno purtroppo messo sulle spalle ben 900 euro di multa. In nome di Dio, io ho sbagliato, per la carità, però mi è parso una cosa veramente fuori dal normale. Guardi, sembra la stessa cosa anche a me, Hermes, buongiorno, è una cosa che mi fa rabbrividire e saluto, partiamo con il gatto. Non c'è quasi da commentare. Oscar, invece, ho tenuto per te una perla. Perché tu dirai: hai bruciato le notizie più belle, no, i forestali in Sicilia, su cui so che ti prudono le mani. Per esempio, l'Europa che spacca la testa all'Italia sugli OGM per la nostra cosa antiscientifica, per esempio, bisognerebbe ancora rifletterci sopra. Naturalmente i giornali italiani, tranne uno, che è però in questo caso antiscientifico il fatto, ignorano quasi la cosa. Io invece la considero una grande cosa. Viviamo in un paese, caro Luca, che su questi OGM niente, è il Medioevo, è il Medioevo, e la Corte Europea bastona e dà giusto risalto a Giorgio Fidenato, agricoltore che da anni sfida la stupidaggine italiana. Per esempio, piccolo esempietto che sui giornali italiani secondo me andava un pochino più ampliato, ma però dicevi. E questa è la notizia più bella, è nata la pornografia radiologica. Oh, mamma mia, sì. Ad Ancona è stata trafugata per farne diffonderla con un uso da mistico la radiografia della doppia frattura scomposta di tibia e perone di Valentino Rossi. Trafugata dall'archivio digitale dell'ospedale di Ancona è partita la magistratura. Ma chi è il malato che può vendere adesso, per diffonderla sui siti e fare ascolto la cosa, la radiografia scomposta? Tu vieni per così dire vellicato dall'aspetto del culto della personalità. C'è anche un aspetto serio. Questo ci dimostra quanto i nostri dati personali, in tutta la digitalizzazione, sistema pubblico, chiunque piglia quello che vuole, cioè questa è la verità vera, cioè chiunque prenderà, che ne so, andrà a prendere le cartelle cliniche di Cruciani, magari ci lavorerà sopra e uscirà fuori che Cruciani ha la coda. Stavi aspettando chissà che cosa. Non ero preoccupato. Allora, 22.000 forestali, 80 euro, 30 giorni dal voto. Voglio un tuo commento sobrio, composto. Non può mancare la campagna elettorale siciliana, non può mancare, è un classico come la chiusura di Riscossione Sicilia di Antonio Fiumefreddo. La Sicilia, in questo te l'ho detto, Mattia Feltri ha colto il segno della campagna elettorale siciliana. Mi dispiace, so che ho avuto un ospite, una parte politica, io non do giudizi politici, dico che è un teatro eterno di pupi e pupari, vogliono tutti la rivoluzione a chiacchiere. L'eterno continuo della Sicilia è quello: quando aboliranno l'autonomia speciale, che è uno scudo di dilapidazioni, se ne può ragionare di nuovo. Ma guarda che fonte di notizie sono i nostri ascoltatori. In Svizzera, ci dice uno di loro, le multe sono legate al reddito. Se ha pagato 900 vuol dire ricca. La multa legata al reddito. Cantone, sì. Ma è una follia. No, è una follia. Perché è una follia? Giusto? Cioè, non c'è parità di sanzione. No. Nel senso che invece è più equa, nel senso che è proporzionata alla tua capacità di pagamento, mentre se la multa è ma queste secca, sono cose bolscheviche, Oscar, bisogni. No, è il contrario, cioè, mi hai appena detto che i bolscevichi sono regressivi, infatti è vero, perché di solito tagliano le teste, quindi sono regressivi. Invece no, le persone eque che sanno quindi tu il sei d'accordo sulla cioè, multa proporzionata al reddito ha due sanzioni diverse. Ha la stessa sanzione sulla tua capacità di reddito e di acquisto. Le ha diverse se metti la stessa sanzione. Giannini bolscevico, Gattone no, bolscevico. No, al contrario, il bolscevico no, sei tu. Ma no, io apprezzo che tu abbia degli elementi di socialismo reale. No, il contrario, il socialismo reale è la multa uguale per tutti. Questo è il punto. È vero, è vero. Il socialismo reale impregna l'ordinamento in cui viviamo in Italia. Quello è il socialismo reale. Svizzera, guarda, grande paese. Ho letto questa stroncatura della Lucarelli sul libro di Feltri e la frase, non so neanche se la possiamo riferire, ma qui è una radio liberale. Sì. La frase di Feltri che ha indignato la Lucarelli è questa sul famoso stupro: ho fatto fatica a scopare quelle che me la volevano dare volentieri, figurati come potrei stuprare una che non ci sta. Se non do commento su questo. Non dai commento. No, sul volo. Claudio da Roma. Pronto? Sì, buongiorno. No, è una al volo è giusto le multe, perché devi fare un deterrente. Se io sono miliardario, metto la macchina sempre in sosta in doppia fila, tanto pagare 200 euro, a me che cosa mi interessa rispetto a un poveraccio. Quindi lei dice è giusto farlo pagare più. Guarda, giusto. Ma uno cioè vuoi che i ricchi Ferrari, piangano? Voi siete i ricchi piangano. No, voglio che i ricchi rifondazione pagano in proporzione. Ma guarda un po', viva la Svizzera, viva la Svizzera. Bravo. Comunque io rispetto al discorso dei 5 Stelle, volevo dire questo. È chiaro che Grillo, quando ha iniziato il programma, ha detto non dà più finanziamento ai giornali, toglie i vitalizi, fa la legge sulla corruzione, sulla prescrizione. È chiaro che sono tutti contro. E anche qualche giudice, che non è di Berlino, sicuramente si mette in condizione di partire con una battaglia mediatica su un esposto di un cretino che giustamente non ha fatto il suo dovere. Perché se io ti chiedo di fare una certificazione che tu stai a posto a livello di regole di vita e non me la fai, poi ti va a attaccare che non ti ho fatto la notifica. Ma è assurdo. Io voglio un partito, un movimento che sia giusto, non faccia corruzione, mi presenti della carta stampata non finanziata dalla politica, perché sennò certo. È chiaro. Bene. Che poi sono tutti e la domanda è chiara. Allora contro, sentiamo tutto. Subito Oscar su questo contro, grande consenso, ha riscosso la tua idea. Anche in Svezia le multe sono proporzionali al 7,30. Oscar spiega a Telese. No, è così. Dovete sapere, cari ascoltatori, che qui ci attribuiamo il mio modestissimo ruolo solitario negli ultimi minuti, è quello di fare una specie di spalla. In realtà Telese è per la proporzionalità, perché è di sinistra, quindi. Però per presentare meglio le idee ci dividiamo un po' le cose, no? Tutto qui. I jeans strappati ti è piaciuto? Io sto con questa preside, un po' di legge, un po' di ordine. Infatti tu c'hai questo impasto, ma anche nei libri che hai scritto si è sempre capito che sei così. C'è un singolare impasto, ho sempre apprezzato questo. Perché tu ti piace che vadano a scuola con le canotte strappate? No, ma ho imparato invecchiando che ero in tale minoranza su questa questione del dress code, chiamiamolo così, che non avrei potuto vivere in un mondo nel quale le mie idee venivano rispettate, quindi tendo a non imporle agli altri. Però se mi chiedi ti piace, se tu fossi il preside, no, non lo se faresti. Io fossi il preside saprei che mi carcerano se dico dove ti vestire. Quindi attenzione, che qui in Italia il socialismo reale è questa roba qui, quindi il dress code. Per esempio Solidarietà oggi, secondo me, io apprezzo molto l'apertura della Stampa, che è l'unico quotidiano che fa apertura un po' diversa dalle altre ogni tanto, questa storia che i presidi sono finiti tra l'incudine e il martello, cioè tra il decreto del governo sui vaccini e le famiglie Novax, e devono sostituirsi le autorità sanitarie, prendersi gli insulti eccetera. Solidarietà ai presidi, ma solo per dirti che no, non mi piace tanto la strapponeria, però sai, imporla complicato. Allora, tu per fortuna c'è un ascoltatore contro Oscar. C'è un ascoltatore contro Oscar. Pasquale a Firenze è sicuramente una persona ragionevole. No, però forse sui vaccini. Questo immagino. Pasquale. Sì, pronto. Sì, vai. Anzitutto complimenti per la trasmissione. No, volevo dire una cosa. Io sono favorevolissimo ai vaccini. E ho vaccinato mio figlio, quindi fatto da questo principio. Però ho sentito sempre dire le cose, e mi spiace anche sentire anche a Oscar Giannino, che il vaccino va fatto per preservare dal contagio. Io credo che sia un cavallo da cavalcare con molta attenzione, questo, perché il vaccino va fatto perché preserva dalla malattia e quindi dall'infezione. Però non è che fare un vaccino per il tetano preservi dal contagio o per la meningite preservi dal contagio, perché i soggetti, anche se vaccinati, restano sempre contagiosi nei confronti di soggetti immunodeficienti. Quindi attenzione a come si dicono le cose, perché se le cose non sono sempre così, va bene per un vaccino per il morbillo, va bene per un vaccino. Aspetti, lei ha detto il passaggio decisivo, ha detto non sono sempre così, però in molti casi sono così. Il morbillo, per esempio, io quando ne ho parlato si parlava di morbillo, per esempio, è così, cioè il famoso tra virgolette effetto gregge, per capirci, cioè le coperture vaccinali per tutelare gli immunodepressi. Comunque, in generale, nel dettaglio, lei ha ragione. Ecco, sono altri casi, cioè come quello del morbillo, clamorosi, in cui invece no. Ecco. Così come non sono d'accordo sulla relazione di chi in qualche modo si esprima contro, perché le persone hanno diritto a parlare, poi evidentemente tutti possono giudicare. Vorrei dire una cosa, c'è un motivo per il quale gli italiani stanno facendo una lotta contro i vaccini. Se vuole, le rammento una cosa, noi abbiamo la memoria corta. Ai tempi delle trasfusioni, le medesime ditte che oggi fanno i vaccini, e non voglio sollevare problemi politici. Bene, perché se no ai tempi delle trasfusioni entriamo in un ginepraio. Insomma, le trasfusioni dovevano essere anche sicure, e invece hanno fatto tanti. Oscar. No, perché le trasfusioni che creavano danni si dovevano alla trascuratezza del rispetto delle procedure medico-sanitarie negli ospedali e nei centri italiani. Non c'entrano niente le aziende produttrici Big Pharma in quel caso. Ecco, perché l'Italia era trascuratissima su questo, sull'utilizzo di materiali monouso e così via. Allora, attenzione a non dire, questa è un'emerita sciocchezza, ecco, detta proprio fuori dai denti. Detto questo, gli italiani hanno diritto di pensare come vogliono, tranne che il nostro mestiere è invitarli a non ignorare l'evidenza, diciamo così, di milioni di chilometri cubici di letteratura scientifica. Allora, una valanga di messaggi sulle multe, ma finalmente un ascoltatore ha trovato l'argomentazione che a me non veniva. È in Italia che è pieno di evasori, nulla tenenti, pagano zero pagano. Oscar, qui ti vogliono premier, ma una buona ragione per cambiare il sistema fiscale italiano, perché questo sistema fiscale italiano è fatto dalla finta progressività. Finta, io la voglio vera. Allora, ricordatevi, messaggio in segreteria 02465244492. Noi torniamo domani. Grazie, buongiorno. Miau. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi ha presentato 24 mattino.